immagina te tu, profe, ciao, buona sera intanto. Come mai col TL922, no? Segnale quello grosso della schermo dove va. Lo va. Un chilo mattina M e due in SSB. Mi mettevo a parlare nel 5. In un giorno c'era Mario Babbo Natale, siamo come fratelli, molto amici. E stava rientrando da Cagliari. Lì nella piana di Campera erano uno dietro l'altro col collega. Cazzo, non intendia il collega, intendia ce l'ho a me la giaccia nel 5. Mi ha telefonato, boh, stava a me rubito, vale. C'ho Costantino dietro, cazzo, non lo scelto. Ma ti punti lo canalizzi così o no? Oh, yeah. Ciao Antonio, con l'artiglieria pesante, no? Ehi, tu la Carbonazzi, da qua un po' meno, ma già su di un leggio con la sombra su quella zona, ma lì era molto più aperta, non era più alta, perché questa è più alta la zona, però era più aperta perché superavo proprio Scaraicciocca, prendevo in pieno la piana di Campera, ma com'era tutta quella zona, cazzo, ma le risate la riga. Cisci, cazzo, non sentiva Costantino che ce l'aveva dietro, era uno dietro l'altro, lavorava con Aroni allora, per carità, che divertimento, vabbè, bei tempi, andate Ginetto Francese, attento Mario Francese. Ciao Gianni, ma ti ammetti quando è entrato uno Kawasaki di fronte alla questura, che ogni tanto faceva un attimo di querizzi, che mi stavano chiamando i poliziotti, che non sentono un accidente. Ehi, sono in Abruzzo, ci è divertito a quei tempi, ci siamo divertiti tutti, vabbè, adesso siamo rimasti quattro gatti, se non ci rispettiamo uno con l'altro, alla fine non è rimasto più nessuno. Piuttosto la cosa, quello con i piatti, quello già dato, metteva il fischio su 15 a Torre Chopin e su Borodoni e che idea, come fai, cazzo, gli hai perso i migliori anni della tua vita, cazzo. Vabbè, a quell'epoca cos'era? Metà anni 80, una cosa del genere. Ho fatto giusto una apparizione fugace, era buona giù di Munghe. Ho smontato tutto e mi sono venduto tutto. Io sono arrivato a Sassari nell'83, dal 74 all'82, modulavo a Porto Torres, nell'83 sono arrivato a Sassari e è vera la cosa, la si dice, per carità. Cosa non vera, no, cosa c'era, cosa non c'era, Santa Maria Madre Nostra. ti ripeto, ci ho durato poco al periodo, però quel poco che avevo fatto già me la metto la brutta in vera. Oh, yeah. Guarda, io ho incendiato due radio, sono messi sotto casa con la macchina, ha detto vai dini, appena importante, vai dini, uno era Piero, che abitava in via Nuvi, che lavorava in ferrovia, amico di Torellai, uno era lì, sull'altro, vabbè, Antonio Reggetti è capitato così, perché era passato a prendermi, dimmi quando sei sotto chiamami, mi ha chiamato, mi dicevo che sono sotto, io ho risposto, ci avevo l'amplificatore attaccato, ho schiacciato, ho detto sto scendendo, cazzo varo e non vera, ma lì Antonio, tu, c'ho qui sotto ai noghi, ed era sotto il cruscotto, cazzo che mi devo guardare radio. Oh, yeah. Mamma mia, crocro, tempi memorabili. Con lineare annesso. In cosa ridere il amplificatore? Gli ho fatto un buco, la manca, ragazzo, si è giocata la regina. Sant'Antonio mio, bella cosa. E l'altro era, ti ricordi a Daniela, Antonio? Daniela è, il fratello come si chiama, scoiattolo. Erano tutti e due attaccati a me, vicino a casa. Hanno tanto ci mettevano, si spostavano di canale, dicevo state nel canale mio, che non va bene, siamo attaccati, state nel canale mio, no, c'è Andraziani, io per dire stavo nel 14 con Antonello, con altri, vedi Cimonia e Ruvinti, uscire, tac, tiravo sulla leva, ma ci stai sfratterando, io cosa ti ho detto, la pace del canale mio, e parla insieme a me, no, ma noi ci abbiamo gli amici, vabbè, fai come te ti piace. Alla fine hanno rinunciato, ci hanno venduto tutto. Ma ci va la forza, te lo dico, se scogliato ci va forte, ci va la vita. Poi c'era l'altro che era più su, te dico, di quello che è andato proprio che al lago di via Milano. Vabbè, poi c'è stato quel periodo che si bruciavano le Mantova, c'era Walter, poi c'era Vittorio, faceva la turno, un uno, poi l'altro, facendo le gare a Cagliari, poi Gianni Unesole, comunque, arrivavo a Cagliari, eravamo in pochi, eravamo Angelo Delfino, tu, Claudio, Walter, Vittorio, anche Gianni Unesole è riuscito ad arrivare di lì. Figurati, eravamo pochi ma contatti. In quel circondario da partiva via Rizzetto, via Alghero e vicino invece Roberto Quadrato. Ora portati il Coca-Cola. Arriva Salvini, lasciati il rilancio. Questo è il fiscico, vi l'accidero, ma io anche ultimamente quando entrava Manuel da Auristano, arrivava S5, poi non l'ho più sentito, non so se sta ancora trasmettendo, arrivava S5 a Carbonati, arrivava benissimo, quello di qua, quello di l'accidero, ci parlavo sempre, non c'erano problemi, però il periodo era quello, minchia cazzo. Vabbè, Salve, quindi adesso beh quella tenna lì cosa monti, la Mantova? Buonasera Claudio, buonasera, ben ascoltato. No, la Mantova l'ho portata giù in campagna, siccome tanto andremo spesso in campagna, l'attacco lì, c'ho tutti i pali, tutto quanto, l'attacco al bagno, me la faccio salire 7-8 metri su, già e arrivo, siccome è un fosso questa stradina, sicuramente colpa del tutto esco fuori dalla strada, risulto a livello di della via principale, diciamo, la via del Martino, capito? E la tengo giù, qua sto murlando così, perché poi non so qua se il prossimo anno abbiamo andare via, boh, no, non ho giù preso, quindi è un macello. Ascolta, mi sono andato via la radio, perché RG58 non ho levato lo spezzone, e ho visto che non innesca più. C'è una bomba, Sabe, una bomba, sì, 9+10 radio super 5. Capa. Allora, praticamente lo spezzone di RG58 che andava dal baracchino all'apparecchio, non andava bene, li ho fatto direttamente, ho comprato delle PL nuove ieri alla GBC e li ho messo lo spezzone di 213. E ho visto che anche con l'amplificazione alta non innesca più nulla. Claudio cosa ha detto? Guarda il giudizio, Sabe, sono accorgimenti. Proprio fesserie che però vanno fatte quando tu mi dille la verità alla radio, pure come il Sapponi, il RG58 con il cambiale non serve a nulla per l'interno, no, cioè, va in disaccordo, capito, va in disaccordo, inizia l'RF a fischiare, a fare il cavolo, deve essere RG58, usi tutto RG58, 213 tutto 213, H1000 tutto H1000, H100 tutto, deve essere tutto uguale, perché qualsiasi spezzone diverso ti fa rientro di RF, capito? Avanti Natalia. Capa, c'era qualcuno, forse era bulldozer, cosa vuol dire questo di la verità? Io dico sempre la verità, soltanto la verità. Tu mi sembra modo leggi, capo il Bonnier. E all'inizio del passaggio, quando ho incominciato il passaggio, si è sentito lui, di la verità. Massimiliano, non è fa Massimiliano in queste cose, capo il Bonnier. E c'era lui, sì. Vabbè, non c'è più. Vuol dire che è andato a farci la doccia. Avanti, lo breffè. Dille la verità Claudio, ma come fai a dire che sto uscendo bene, una giri zendi? Se vuoi ti faccio un audio e te lo mando. Per me sto uscendo benissimo, forse perché voi siete troppo vicini, non lo so. Io ti voglio bene, Saverio, però c'è troppa amplificazione, vai dentro la Damollana. C'è un effetto camera che dà paura. Cazzo, c'ha radio 5 perfetta. Quando virai la legge? Vai tagli a TP, lì vai. Allora io la posso anche ammassare, guarda, adesso chiuso il turno, ammasso l'amplificazione. Tu però fai la cortesia, rega, bugati che si innesco che ti ha regalato presso. Io? E certamente che sì, c'hai in sottofondo un piccolo innesco. Adesso non c'è, ma il passaggio ti sentiva leggero sotto. Ma Silvia, ma se vuoi te lo faccio sentire, io sto ricevendo col capo, per me è perfetto. Vabbè. Io ce l'ho un cuffia invece. Non è il capo, però le orecchie mi taglio i peli il sabato, mi faccio la ceretta anche dentro. C'è troppa amplificazione, secondo me questo è il mio parere. Sì, ma infatti la posso sempre abbassare, non è un problema. No, adesso l'ho abbassata, ho chiuso i turni, siccome noi siamo vicini, tu mi ascolti così, molto rimbombante. Però il problema era dato che stavo dicendo che siamo riusciti a risolvere il problema che se metteva manetta l'amplificazione mi innescava, per quello che c'era la manetta, capito? Ora invece anche se la metto a manetta non innesca più, avanti qua. No, in cuffie anche a me mi fa il gioco, Massimiliano, anche a me mi fa sordo, è troppo alta. Però adesso sei diventato ancora più cupo, scusa, e tu ne a quanto ce li hai? Claro, non è che, in poche parole, è cupa quella radio, capito? Non è che è inutile farsi sentire forte, cazzo, ma cioè, non c'è bisogno claro, che aumentare così tanto per farti accucciare in ogni sassa che sia mai forte. Cioè la radio deve essere, sì, bella presente, ma deve essere anche ordinata, secondo me. Per me non c'è bisogno di mettere tutta questa amplificazione, perché così mi cuffa un bel. Ma adesso ha migliorato, sì o no? Per me devi abbassare, per me, cioè io come ti ascolto in cuffia, salve, io è quello che ti dico, perlomeno per la mia ricezione, poi ognuno dice la sua, capito? Abbiamo tante radio diverse, quindi ognuno ti dice la sua. Comunque, secondo me non c'è bisogno, per me devi abbassare molto pure. Tanto vale allora che metto il microfono originale, quello dell'apparecchio, dell'apparato, e guarda, così ce l'ho a metà l'applicazione, è A5. Mi sono i bassi, cioè. Quello sto notando, Massimiliano, non è che ti sto dando torto, Ho messo le cuffie anch'io, e effettivamente era cuffa, però senza cuffie lo sentivo molto meglio, però salve, cioè, come ha detto Massimiliano, la devi cercare di centrarla, cioè i toni devono essere in una maniera e l'amplificazione in un'altra maniera, se no è brutta. Allora, che differenza c'è? Così i toni sono a zero, invece così sono messi a 10, i toni così ce li ho a 10, e così sono a zero, che differenza c'è? Ti dà più acuti, bello fare un cagaro, ma non devi fare da 0 a 10, devi fare 0, 1, 2 i toni, e io ti dico, ok, bloccati così, poi l'amplificazione si regola in base ai toni. Ok, allora partiamo da 0, considerate che c'ho mal di gola, perché ieri fuori ogni notte eravamo fuori arrotendo, e c'ho mal di gola, allora 1, 2, 3, 4, 5, guarda, così sono a metà, i toni sono a metà, l'amplificazione è a metà, 1, 2, 3, 1, 2, 3. No, devo dare ragione a Massimiliano, poco fa forse l'ho distratto, no, prova, regola tu Massimiliano, sei più vicino. Allora, salve, i passaggi si fanno, devi regolare il microfono, 1, 2, 3, allora fai un passaggio e poi ascolti quello che ti dicono. Secondo me l'amplificazione la puoi mettere anche a 7, però devi regolare i toni. Allora, con i toni tutti chiusi, per il tuo timbro di voce, che tu sei molto, molto grossolano, tutti chiusi secondo me non vanno bene. Per me, poi ognuno, ti ripeto, ti dice la sua. Io ti ho ascoltato bene quando hai detto questi sono a 2,5, mettili a 2,5 a vedere i toni, e l'amplificazione la metti a 7, vediamo come esce. Allora, guarda un po', l'amplificazione a 7, i toni sono tra il 2 e il 3, tra il 2 e il 3, 1, 2, 3, prova. Vedi, già la radio è molto più bella, secondo me. Adesso i toni li lasci così, aumenta a 8. Allora, così l'amplificazione è a 8 e sono a 40 centimetri abbondanti dal mic. Allora, secondo me, poi ti ripeto, gli altri diranno, secondo me se tu la metti tra il 7 e l'8 l'amplificazione, e i tuoni li lasci così, per me la radio va bene, per me, per come ti ascolto io. Poi io ti sto ascoltando con una radio così, boh, ci sono altre persone, fatti dare controllo da loro. Vai, chi c'è? Lubrefetta, vai tu. Va bene, va bene. Chi è che c'è? Chi c'è? Chi c'è? Sul canale. Come mi ascoltate, a parte che sono un rauco, vi ripeto, perché ieri stavo a Rostelli. Cioè, mia moglie mi sta chiamando adesso, siamo lì per partire, dobbiamo uscire. Per me va bene così, come ti ha detto Massimiliano. Io mi sono messo le cuffie, va bene. Senza cuffie va bene, però non arrivi tu qua. Noi domani sei in donna butti a capo. Lascialo così, puntella. No, intanto lo tocco perché, per esempio, ieri notte eravamo più di un'ora in banda laterale, io dicevo cosa devo dire, a mio cognato stavamo parlando con tutta la Francia, Parigi, Lyon, Bordeaux, tutto. Poi è cominciato a subentrare anche la Bretagna, da dove lui è arrivato, che c'era 16 anni, e te ne dico, eravamo più di un'ora, un'ora e un quarto sempre parlando con questi. Tuo cognato parla francese? Sì, c'era 16 anni, è tornato a dicembre per farsi Natale, poi ha visto che ci stava meglio dalla famiglia, è risalito in Francia, si è preso tutto e se ne è tornato qua. E ieri ora gli dicevo, dì così così, cioè cosa ti ha detto lui? Lui me lo traduceva in italiano, allora gli dicevo già rispondergli, capito? E poi gli diceva che stava parlando dalla stazione del cognato, perché questi gli dicevano, ma come fai a parlare così bene il francese? Lei ha detto, ne sto appena arrivando, c'ero 16 anni. Gaffa gaffa, va bene. Lubrefè. Eccomi. Eccomi, no, mi sono allontanato un attimo, mi hanno chiamato. Cosa mi sono perso? Oh, salve, scusa, ciao Lubrefè. Salve, non la prendere a male, io ti dico quello che penso, perché secondo me è inutile avere una radio mal forte, però fa schifo ascoltarla. Ecco, in parole crude, ecco. Per me così c'è una radio bella, forte, presente, i toni vanno bene, e per me è bella così. Ma stai scherzando, Bulldo? Ma perché mi dovrei offendere? Sono gli altri no che ti devono dire come stai uscendo, è logico. No, è perché ti ripeto, se vado una banda sopra, vado in banda laterale, per esempio, l'amplificazione la devo chiudere quasi tutta, non lasciarla alta mi tende a strappare, capito? In banda laterale. E poi cosa ne so, in FM la posso mettere anche a manetta, dipende da dove stai trasmettendo, quanto stai facendo, in base a lì ti puoi regolare l'amplificazione, capito? Adesso qua può essere locale, così è, voi mi avete detto che va bene così, lo lascio così, Massimiliano, terrò conto queste posizioni, 3 di toni, 8 di amplificazione, ok? Sì, per me così va bene, Luca Ferro, come l'ascolti tu che c'hai le orecchie pelose? Va bene, approvo, metto il timbro e il sigillo. Lubrefetta faceva il cantante, fate un conto. Andave, dipendi qua, tu così che non ha camicetta, buh, agita. Io cambiato radio, ok. Fatti sentire con questa, vediamo, questa è 4:30, se ti ascolto bene. Guarda un po' Claudio, vabbè ci sono anche i bambini sottofondo, qua c'è un po' di tutto aperto, mi hai su pupo anche che piange nell'altra stanza, e vabbè comunque a 8 i toni sono lì circa 3, dai, un po' come noi 3 forse, bu. Avanti qua. Va bene, ti ascolto bene anche col 4:30, non c'è problema, oltre per la truppa. Chi è che c'è rimasto qua? Antonio, ci sei ancora? No, va bene, avanti Massimiliano. Ehi, va bene, no, va bene, senza nessuna, però secondo me al primo passaggio quando ti ha detto che tu gli hai detto Radio 5 perfetta, per me non era molto perfetta. Cioè è sempre meglio correggere il tiro, mi hai capito Claudio? Cioè quando la senti bene è bella da ascoltare, capito? Invece quando è troppo forte, cioè quello che penso io è inutile la radio tenerla molto forte, quando poi esce brutta, tutto qua. Ok, Natalino ci sei. Oh Natalino, ma niente, è un orario di tirare, è già con un bollo in mano, vai Lubrefè. Oh yeah. Stai usando la radio a combattimento, Massimiliano? Ehi, è troppo forte, cambio? No, vabbè, si sente che è da combattimento. Non mi costa nulla a me. Io mi bocco. Già va bene così, l'ha caduto, a futtidini. Eccoti qua, ti sei accontentato, dai. Mi nomi il Galaxy. E più ci abbiamo anche la Caruxita a fianco, vai, con un mosso ne faccio un capo. Ecco, oh yeah. Sì, c'è l'Antonello, Natalino non l'ho sentito, forse perché mi sono spostato poco fa. No, già c'era, già c'era. No, va bene, Massimiliano, va bene anche questo, non c'è problema. Sì, sì, mi sono distratto perché avevo l'NB inserito, capito? E mi sono accorto che infatti la modulazione cambiava, niente di che. Sì, claro, perché allora te lo spiego. In poche parole prima era nel 45, non gli ho voluto dire niente, non sono neanche entrato a dire niente, però la radio era brutta perché lui siccome c'ha la voce molto molto grossa, quindi con i toni a zero non vanno bene, capito? Infatti i toni del MB5 vanno sempre almeno a metà. Io col Galaxy ad esempio con l'MB5 devo usare 5 i toni, l'amplificazione è tra 7 e l'8, va più che bene, tutto lì. Scappa brioscia, sì, è così. Andà bene, da c'è su gatto, ma col cornicione va giù la vada ancora, che buh. Avanti, Beppe. Vi siete calpestati un attimino. Per prendere io il mic che sto uscendo, ci sentiamo dopo, ok? Devo fare delle commissioni. A più dopo, un saluto alla circolare a tutti e un abbraccio. Ciao Salve, guarda che bello che sei, anche col gara sei un amore così. Vabbè, meglio così. Salutoni di nuovo a tutti, dai. Se dopo ci siete facciamo due chiacchiere. Ciao ciao. Ciao ciao, avanti tu. Bravo, ti sei allontanato, vai Rubrefe. Eia. Eia. Ciao Salve, dai. Sì, ci aggiorniamo. Oh, io in una gana, prova a aiutare. E che stai vedendo, un bel fede. E già lo sai, no? C'è bisogno di ricordarlo. Ah, che immagine va la doccia. Tu sei maestro di carte, quando inizi a dare carte non c'è per nessuno. Gesù, cazzo, allucinato. Entri due secondi, dopo, un casino. Cazzo, cioè, sembra che ci sia il miele nel canale 10, in FM, in SSB, cazzo, non li mucca, cazzo, no, c'è sempre che ci ho aburuto sotto. No, perché bisogna mettere un po' di ordine qua, qua bisogna iniziare a entrare in FM a liberare il canale, capito? Ma io purtroppo sono piccolo qua e non posso fare prepotenza, se no mi sarei mosso. Ma tu non hai FM lì, sì? Sì che ce l'ho, ma cazzo non ho 4 watt, dove vuoi andare, Massimiliano? Io sono in affutti, anche io ne ho 2 qua a me. Ciao Goa. Antonello è il più forte, ciao Antonello. Come sei a cornicione tu? Tutto a posto, tutto a peppe il cornicione, con questo callo. Poi sono andato su internet, capito, devo mangiare citrioli, uova, e poi sono pensato, cazzo, tutta un'altra serie di cose per il cornicione, così aumenta da 5, ecco, anche più forte di radio, si solleva l'antenna, da 5 a 10 a 20 centimetri, cazzo. Antonio, ti volevo fare una domanda, ascolta, allora il Galaxy, mentre stai modulando, il frequenzimetro sparisce, se ne va, scesito cazzo, se ne va a zero con l'ultima cifra, poi dai, col pezzino si riprende, cosa può essere? Qualche falso contatto? Eia, falso contatto, devi aprire dove c'è la spinotteria, lì li pulisci bene e poi lo rimetti nuovo a posto, hai capito? E non faccio contatto perché altro non è altro. E quel cavetto a 2, non quello grande, l'altro a 2, perché c'è il cavetto a 2 che prende il segnale che ti segnala la frequenza. Quello che parte da dentro l'apparecchio dove vicino alla media frequenza al frequenzimetro. Aspetta, allora c'ha 2 spinotti, uno che va a frequenzimetro che vediamo qua e l'altro dove c'ha quella scatola cromata. Ok, c'ha 2 spinotti, uno che entra qua davanti e uno dietro, quello lì sta dicendo. A parte quello, ma c'è anche l'altro che parte dalla media frequenza, è un cavetto che c'ha il positivo e la calza, parte dal centro da dove c'è la media frequenza e va al frequenzimetro, hai capito? Non la può vedere, no. Avanti, Claudio. Vai, Rubrefe, riprendi tu che Claudio si è addormentato nel microfono. Lei, magari si... Si sarà spostato un attimo, o sta rispondendo al telefono. Vabbè. No, ti stavo dicendo, Massimiliano, cazzo, no, c'ho quattro vacche, cazzo, in FM, non posso andare a fare prepotenza con questi qua, capito? Ho capito qual è questo grigio che c'ha lo spinotto, sì, che sono accoppiati, quello lì sta dicendo. Eia, bravo, è lo spinotto che c'è, un positivo la calza. Quello lì in pratica prende la... il segnale della media frequenza e te lo mando alle frequenze, ma ti segna la frequenza esatta. Perché ho tolto il tappo, lo sto toccando, ma non è da quello però. Prova a pulirlo bene, però non col coso, con l'alcol, no. Ti passa per appena mettere via, gli passa il coso, lo lascia asciugare. E altrettanto fai nell'altro spinottiera, hai capito? Dove arriva l'alimentazione. Ho capito, da. Perché dove c'è la scatola, quella diciamo cromata, lì è saldato lo spinotto, giusto? Sì, infatti è saldato, bravo. Cioè, se tu c'è la massa che parte da lì e va alla, come si chiama, alla massa dell'apparecchio. Sì. No, non gli ho messo le viti perché è dall'altro giorno che sta facendo questo problemino. Allora, ho tolto lo spinotto, gli ho messo uno spray per contatti, però invece lo sta facendo ancora. Quindi vuol dire che vuole pulito, come stai dicendo tu, eh? Esatto, lo fa quando c'è appena appena di condensa, cosa del genere, capito? Segna il frequenzimetro 00 e poi la frequenza non ti appare. C'ha il cornicione sporco, vai Rubrefe. L'unico che mi ha fatto uscire di testa, cazzo, è l'ultimo Saturnecco, cazzo. Quello mi ha fatto uscire di testa perché è stato un coglione io, cazzo, che ho preso il pezzo, in pratica il trim è da un circuito stappato che c'avevo di un altro affare, e ce l'ho pensato lì, e mi ha fatto lo stesso difetto. Dopodiché quando mi ha girato le balle, poco, cazzo, sono forzato il CVC, giro, cazzo, mi ha girato, ma si è messo a posto, brutto, froscio, mi ha fatto uscire di testa per un mese, cazzo. Allora da quello, vabbè, a parte quelle due, il condensatore e la resistenza che ci hanno bruciati, quelli lì ho preso senza, e glielo cambiati. E lì era solamente per la questione in trasmissione. In pratica ti alimenta lo svito in trasmissione, tutto lì. Invece quello di ricezione è totalmente diversa la storia. È proprio attaccato, sono collegati assieme, c'è il trim dello Smith della MFM col trim dello Smith delle CCB. Gappa, va bene, e ce l'ho anche pure la triolina, poi un pochino gliela metto, tanto gli ho tolto il tappo, non avevo messo le viti per questo motivo, perché tu come sollevi, no, hai visto dove c'è quel malloppo di fili, come tu che appena si mette il frequentimento a posto. Sì, già lo so già, uno due ne ha aperto di Saturnecco, ormai riconosco a memoria, riconosco. Di Saturnecco, me li gioco come il coso, me li gioco. Solo che a volte ti capita quando sei l'apparecchio che non ci fa riparazioni su quell'apparecchio lì, ti fa diventare un po' esaurito. Perché da me non mi ci sono messo dentro, infatti. Adesso devo vincere io, mi... Sei messo tutto a posto. Ho preso e appena l'ho sistemato, che era tutto perfetto, latte eccetera eccetera, tutto l'ho controllato bene. Ho telefonato a uno e dove vuoi, dicevo 50 euro. E tutto è venuto alle 8 e mezza, è venuto a ritirarsi, figurati. Va bene, ok. Vai un caffè, riprendi che io mi devo allontanare un secondo. Teia, sono andato a prendermi una mela, mi sto mangiando una mela. Ah, la mela mangia, così a me lo... Ti manca solo che mangi la mela anche quell'altra, cazzo, tu hai fatto qualche brasiliana che mangia la mela anche lì, quindi fate Adamo, Eva. Ah, ecco, via. Claudio è sparito, boh. E Claudio sono andato a... magari l'hanno chiamato, non lo so. Io mi sto divertendo a ascoltare questi discorsi, che tutto scorso si stanno pigliando a cosa, a bestemmie ogni tanto. Ma il PNR? No, no, su canale 4 del PD. Poco fa gli ha detto uno, non bestemmiare, non bestemmiare. Poi l'altro giorno mi ha chiamato uno, una tipo Alessio, Alessio. Ho preso e ho detto, dimmi, cosa c'è? Puoi scendere giù, ho detto, certo, sto scendendo, non ti preoccupare. Forse c'era qualche omonimo. Esatto, ho preso due risposte, era su canale 4 del PD. Mi sono entrato. Vabbè, adesso periodo un po' strano, tra bambini e cose del genere, poi c'è anche propagazione addirittura, quindi su 10 mi diverto ascoltare, c'è la Corsica, la Francia, che parlano dal 9 al 10, e sentono benissimo, come se fossero qua a fare. Ehi, ma Marco oggi non lo si è fatto sentire, Marco Condor? No, non l'ho sentito, la verità. Sicuramente magari è riaccesa, però non vuole entrare. Senz'altro, magari sta mangiando. Probabile, io sto finendo di mangiarmi una mela, quasi finito, e poi ho le mani libere. Meno male, meno male. Cioè, va bene, che c'è rimasto? Ah, boh, noi due, Massimiliano si è spostato un attimo, boh. Cazzo, mi sta arrivando il vento forte di colpo, vedi? C'è paura. Oh, ragazzi, se ci siete vi devo salutare. Sì, siamo qua. Ciao, Massimiliano. Te dopo, dai, ok? Ciao, Massimiliano. No, ciao, dopo. Ciao, dopo, Massimiliano, ciao. Ciu. Chi è che chiama? Io ci sono, chi sei? Ti sento, ma sei 7,7 Radio 3. Non ho capito chi sei. Quasi 8. No, 5 non lo sei, sei 3,5, quasi 4. Chi sei, sceriffo sei? Me ne sono accorto subito, guarda, che eri tu. E cos'è combinato l'antenna? Che ti sei necessitato di segnale e poi sei salito attorno. Ah, comportatile, sì, ho capito. Avanti, vuole entrare. Ciao, Cerì, ci sentiamo, stai bene, alle prossime. Tutti morti. C'è qualcuno? 110? Beh, di mo, chi è avanti? Greco 10, attenzione al canale 10, c'è qualcuno? Sì, avanti. Dimmi come sto scendendo, sto usando una verticale per altre cose, dai, con un'altra radio. 9.35, vabbè. Quindi funziona questa, no? Tu mi stai arrivando a fondo strada con il 9.40. Beh, cazzo, ho cambiato parecchio, sono più con 140 io. Una bomba sta arrivando, fortissimo. Quindi sta arrivando a 9.35. Sì, ja. Questa non c'entra niente, una verticale 5 bande, è grande come antenna, 10 metri d'antenna questa. Ascolto lo stesso, non sei come davanti, ma però vabbè. Ma puoi andare in banda laterale pure? Secondo te con 140 dove posso andare? Dove vuoi? Anche in 45 metri si può andare. Facciamo una prova in banda laterale, dimmi come mi ascolti, dai, mettiamo LSB prima. Eia. Adesso sono una M. Ok, io sono una M lo stesso. Mi senti adesso? Scusa. Oh, mi sentite? Allora, se vuoi passare, allora Antonello è centratissimo. Tu sei a punto 25, Robert. A punto 25. Se stai usando il 440 è sempre lo stesso problema che hai da 20 anni. Io sto usando al 9.40 ed è centratissimo, garantito, te lo garantisco, perché abbiamo fatto un sacco di prove. Forse il 4.40 non è centrato, ma il 9.40 è perfettamente centrato, te lo garantisco, perché quando facciamo le prove do sempre i rapporti, le correzioni, e molte volte qualcuno è fuori frequenza e facciamo riferimento. Lascia perdere, Robè, lascia perdere, non dire fesserie, Robè, quando parli con me, ascoltami. Uno è l'SSB in banda amatoriale, e sei centratissimo. Uno è gli 11 metri in banda laterale, in 11 metri, quella radio è spostata. Io sto andando col DSP inserito e sei, e stavi trasmettendo a 27.075.50, mentre Antonello era 27.075.00. Vale, ma è 27, non lo so, non insisto, in banda KF ti posso garantire, perfetto. Lascia perdere la KF, io non ti sto parlando della KF. Uno è 40 metri, uno è 20 metri, uno è 10 metri, uno è 11 metri, in 11 metri, in 27, quella radio sforzata di 50 Hz, a futti dimmi, che il 140 che c'è Antonello, prima di darglielo, è stato allineato da quello che tu sai, ed è perfetto, perfetto. Vabbè, dai, non insisto, di questo 27 non lo so. Comunque nelle altre bande è perfetta, te lo garantisco, perché quando c'è qualcuno spostato subito me ne accorgo e qualcuno lo dice, attenzione sei spostato di tanto, a me non mi hanno mai detto niente. Ok, e dimmi un po', la cagata come sta uscendo così? Ma vabbè, ma preferisco sempre il 440, 940 ne ho avuto 4 in AM, non mi piace, è troppo cupa la modulazione, no? Non mi piace. 4.40 spinge molto di più. Comunque Antonello è centratissimo, mi stavo seguendo proprio con 9.20 perché sto facendo cosa qua e 9.20 non scherza, è digitale al 100% col DSP inserito e decimale 00, mentre tu sei decimale .50, è una fesseria, ma in AM in 27 è spostata quella radio, mentre nelle mani amatoriali va bene. No, non volevo sentire già il rapporto di radio, il segnale è cambiato molto. Cambiato molto, 10 dB in meno, sì. Da 9.30 sì, 9.20. Perché sono con la verticale e quella 5 bande, dai, non è nata per qua, l'ho accordata. Figurati, l'accordatore è nella banda di 10 metri per accordarlo, l'ho voluto mettere neanche negli 11 metri, per dire. Ma ci riportate che esca anche con le bande lì? Certo che esce, anch'io l'FR 2100 ce l'ho in 10 metri, mica ce l'ho in 11, non c'è 11 metri quella lì. Quella fa 10, 15, 20, 40 e 80. E quindi è chiaro che devi mettere in 10 metri e usare l'accordatore, capito? Va bene. Comunque ultimo, dai. Antonello esce benissimo in banda laterale. Cappa. Ok, dai, cambio radio adesso, che questa non mi piace. Lasciala, dovrebbe andare quella, Robè. Usa il 440 27. Ah, c'è, hai visto in Viale Mancini, di fronte ai Giardinetti, un'antenna nuova, nuova, c'ha lo stile verticale, poi c'ha, in pratica, l'altra antenna è piegata in un fianco e c'ha la carica, c'ha, nuova, nuova, nuova, sarà, penso neanche la settimana. Non lo so, tu guarda, salendo Viale Mancini da Santa Maria, tu guarda se vedi questa antenna nuova, nuova, nuova, se no l'avrà messa al minimo di, penso, di 3-4 giorni con l'antenna sopra il petto, e prima di arrivare all'angolo con via d'Italia. Non so chi è Antonio. Non lo saccio. L'ho vista stasera verso le 4 che stavo risalendo dalla, perché mi ha chiamato una ragazza che non riusciva a cavare nei piedi col mixer giù a carica vicino prima al passaggio a livello. Mi ha chiamato, sono sceso con Alessia e gli ho sistemato. Poi ho visto questa cosa, ho detto cazzo, da questa antenna la velocità, lo stile verticale e poi l'altra in pratica forse la radiale rimaneva obliquo con la carica, non so se era per 10-20 metri o una cosa, ma nuova, nuova, fermate, lucida era. Non lo so. Avanti, vabbè, dai, io 10 minuti e poi scappo perché devo fare preparazione alla sua gente. Cazzo, ho cambiato radio io. E tu con che radio sono scendo qua? Con la 120. Come va? Per farlo girare? Sì, mi trovano luce una KF, non è un'antenna, vabbè. lo uso in 10 metri, 6 metri, a volte lo uso qua, perché non va bene. Sei andato un colpo di giocattolo. Cosa? Si è scappato il giocattolo vicino. Il giocattolo? Il drone? No, è spento. Oh, è con la potenza minima adesso, 25 watt. No, perché di colpo da 9,25 sei arrivato quasi 9,40. No, no, no, non ho toccato niente, spento, spento. Guarda, non c'avevi qualche piede mollato, boh, qua è tutto sotto controllo. Non è che non era qualcuno che voleva entrare, avanti che voleva entrare, no, mi è arrivato un picco di 9,40. Allora, il volontario. No, eccolo qua. Non vedi che c'è l'altro, amico? Vai Marco. Ne parli, io qua sogno. C'è Marco, infatti ho visto 9,40, togare, vai Marco. Buonasera a tutti, fu involontario. Fallo involontario di mano, anzi di sedere, perché mi sono seduto sul divano, ho pigiato con la chiappa a sinistra e il PTT del microfono che era appoggiato. Buonasera a tutti. Mica sta col drone, mi trovo io il PTT. C'è il baracchino vulgaris, mi non c'ho niente attaccato. E anch'io, ho detto una convinzione, in realtà non era di più, ma tu sei molto, molto più vicino a Roberto. Oramai non avete capito, mi schiacciate tutti, oramai sono diventato numero zero io, però l'importante è ci sentiamo, dai. Se voi facciamo cambio, vengo a abitare lì, tu te ne vieni in condominio, per carità. Non penso proprio, non penso proprio. Guarda, io potrei fare il salto da qua a Viale San Francesco, perché ne abbiamo un'altra in casa, dove c'è mia figlia, quindi ereditata dalla famiglia, bellissima, ed è nel palazzo storico, proprio nella discesa delle scale vicino alla chiesa. Mamma, così mi baghi quando in Chivi, capito? Abbiamo deciso di affittarla. Perché una parte ci abita mio cognato, fratello di mia moglie, l'altra è stata affittata, ma bellissima, se la vedi da paura, bellissima, molto molto bella, proprio tutto l'attico col terzo piano, quello tutto di, era di miei soci, ma manco ci mi baghi menando in Chivi. Va bene, dai, continuate. Eia, eia, va bene. È vero, beh, sto a posto. Ho sentito anzi, mi ha chiamato lui Marco, poi, e dopo che ho chiuso, ti ricordo, l'ho chiamato davanti a te, non ha risposto, mi ha chiamato, dice, l'invasione mammaria, non so, vabbè, già te lo racconto dal vivo cosa gli hanno fatto, anestesia totale gli hanno fatto. Te l'ho detto, io l'ho chiamato per una pratica che ho in banca, che cioè, stavo mettendo troppo tempo, un'operazione, te l'ho spiegato, no? E quindi ho chiamato a lui, ho detto, io un po' così, ho sentito con questa voce strana, ho detto, ma cosa vai? Mi ha spiegato tutto, capito? E me l'ha detto che l'hanno disintegrato. Dice che gli fa ancora male, gli ho detto, stai attento, 3 giorni deve rimanere, oltre oggi, altri 3 giorni. Casino, vabbè. Gianni è un profeta, ci sei? Sta mangiando il panino, già rientra subito, ha detto. Con questo 6,950, vabbè. Non ho capito, stai usando? 6,950 adesso. Ah, vabbè, tu sei 9,60, hai usato di più. Vedi, adesso sono Antonello di prima, di una volta. No, ma ti sento perfettamente, proprio una bella modulazione. Come piace a me, tranquilla, senza effetti strani, ma la giusta. Era molto caccia radio, che era qua a capo. È bellissima, esce molto, molto bene. Ma bene veramente, nuova quella radio. Bravo Antonello, finalmente mi hai ascoltato su quella che dura 3-10 anni. Ci ha già messo il LED azzurro nel display, nel Cosmi, nello Smitter. No, ci ha messo la Radler dentro. Che gli fa la il LED giallo, alimentazione birra. Ma perché gli hai cambiato già la lampadina? No, stavo scherzando. Per rompo il culo, Non è vero, Charlie lì si chiedevi che ha messo al posto dello smitter, perché era cotto un giorno. E quindi faceva che la farina che accendeva e sfaineva, Antari. Ti rompo il culo, Antonello, lascia la stare, cazzo ti metto l'attacco nelle vidie. Senti lì i sigilli con la ceramacca, così non tocca nulla. Ah, guarda, l'unica cosa che volevo mettergli è il LED, è quello che me l'ha capitato un giorno, qua per sbaglio, che faceva tre colori, faceva rosso, verde e blu, a ripetizione. Se avrei messo quello lì il LED, sarebbe stato bello, levarò pure le colorate, i pulsanti colorati. Il doppio modulatore, le buone. Claudio, uno di quelli da destra e l'altro da sinistra. ma non ci credo poi che non la tocchi, che tu sia 80, l'hai tenuto 10 anni ed era perfetto, anzi era sponsorizzato quel sia 80 perché ci aveva il bip, ci aveva. Con quello un cazzo l'avevo rubato il baracchino, l'avevo riconosciuto a un chilometro, come è successo, ti ricordi, ad Andrea Maricomio, con il baracchino suo, l'FM500S, avevo messo il GBP 4 ottoni, e lo dovevo rubare il baracchino alla macchina. Dopo due settimane è entrato questo, dice, sono nuovo. Ah, sei nuovo, allora stiamo là, andate veloce, sono amico di Emanuele Ginko, aveva detto, ah, va bene, poi l'ha detto, quando dice, ah, c'è un bel baracchino, posso venire a vedere? Sì, vieni pure, passa pure sotto. Ha preso la sussa e ti ha trovato il baracchino indietro. Non vedi, lo so. Vabbè, pazienza. Avanti, Robert, fai girare per Marco. Chi c'è qua in questo canale? Io ho un altro po' da cui vado a preparare casa. Minchia, oggi è già martedì e se ne sono aggregati quattro. Andiamo domenica, c'è con gli affuso. Aspetta che saluta Natalino. E beh, Natalino. Ciao, Robert. Adesso che metto il dottor Murale modulatore l'effetto eco, Antonello. Questo è Antonello. Guarda che nel fatto dell'effetto eco, la verità, l'ho sentito ieri io, in PMR c'era un francese sul canale 10, parla con l'effetto eco, parla. Ma ti sto dicendo che arriva un siluro, ho piazzato l'antenna, io lì per caso la verticale, ma sento la corsica, la Francia, sembra che siano dentro casa. Parlo sul canale 10 in PMR, sul 9 e sull'11, in pratica, da lì non si spostano. Ma con l'effetto eccomi, cosa la, sono rimasto anch'io allibito, allora ho detto l'effetto ecco si può anche piazzare in un PMR, gira, ce l'aveva leggero, ma era bello da ascoltare, la verità. Vabbè, io l'unica cosa che avevo piazzato era nel C80 e lo GBP 4 tonni della Lemme, era l'unico che ce l'avevo, era solamente io, è l'unico che è stato venduto, l'avevo comprato da Fusaro, poi gli altri li avevo comprati tutti da Grassi, l'RB4 della Intec, avevo piazzato almeno una decina di quelli GBP, quindi conoscevo tutti gli apparecchi miei quando lo sentivo, tu stai usando il baracchino che ho riparato io, eccetera, sì, c'è lo GBP 4 tonne, e tu quello l'ho fatto io. Oh signore, io mi devo allontanare, Mario, se ci siete ci sentiamo dopo. Ciao a tutti, ciao Antonello, Natalino, Marco, Claudio e Buffi, c'è altro. Ciao a tutti. Dall'altra parte. E manda in alto. Ehi, sto facendo questi diplomi, adesso ho visto che ci sono delle colcratte, ci sono delle persone che ti danno punti, dai, così faccio qualcosina per perdere un po' di tempo. Ah beh, ti do io i punti. Quanti punti vuoi? I punti, mi dai. Ti do i punti, San Giovanni, la Landriga, tutti ti do. Ehi, dai, vi lascio, Mario, se ci siete ci sentiamo dopo, dai, ciao. Ciao Robert, a frappè. Avanti Marco, oh chi c'è, Gianni Perfetta, sto mangiando. Ciao Robert, ci sentiamo, buon di ex, buon tutto, poi buon di punti. L'altro giorno c'era, aspetta cosa diavolo, ci hanno visto su Facebook, una specie di coso, di raduna, devono parlare, non mi ricordo con chi, ogni tanto lo fanno, con la ISF era, con la, hai capito? Io ho capito. Io non ci ho mai parlato con quelli, ma addirittura mai li sentiti pure io. Una volta avevo dato la frequenza, l'avevo dato. Gli ho detto che ce la faccio a stare cazzo a cercare cazzo i satelliti cazzo, quando parlavo loro, e quando passano per 30 secondi. Ma giocato di perdere il tempo, giusto? Sono a sentirli in un. No. Aspetta stazionale, aspetta. Avanti Marco. Adesso ho accordato. Mo ci siamo. Ce la sei tranquillo. Marco Condor. Sì, prima che prova stavate facendo in SSB? Perché ero con l'apparecchietto MFM, non potevo ascoltare. Io la mia chiesto a Roberto di provare il suo apparecchio con per vedere se in LSB ci va bene. però lo sentivo strano io di radio, la verità, lo sentivo spostato e lui sentiva spostato anche a me, e quindi poi gli ha detto Claudio, io non ho detto niente, e mi dice tanto a me, mi ha detto. Poi Claudio ha detto, guarda che sei spostato tu, no Antonello? No, Antonello, sì, perfetto, poi con questa radio non si scherza, questa radio si è un digitale al 100% con DSP e di decimale 0, lui è la decimale 50, quindi no, non ci sono dubbi, tranquillo. Sì, credo che stai facendo di ex. Poco fa mi c'era la propagazione di FM su 14 eccetera, c'era la Germania, c'era l'Ungheria, di tutto c'era, ma uno si è parlato, cosa se di ex fai, così esci di testa a capire, a parte ti viene anche mal di testa a un certo punto, però ho preferito, stavo solamente ascoltando e basta. Ecco, tu di nuovo. Ah, ecco, no, devo lasciare così. Uno. Tu immaginati Marco l'accordo che c'è con questo amplificatore. Allora, senza amplificatore, no? Con la potenza minima c'ho uno. Stazionarie. Allora, anche nell'amplificatore, perché le segni anche nell'amplificatore. Uno e uno e mezzo. No? Così. Uno e uno. Quando esiste l'amplificatore va completamente a zero, le toglie tutte completamente. Sì, ma stai andando anche di accordatore o senza accordatore? No, questo è tutto in automatico. Senza... Una volta che accordano non è un stazionario l'antenna, però quando esisco l'amplificatore do un colpo di accordatore automatico e praticamente le stabilite rimangono stabili proprio a zero, completamente a zero. Anche in banda laterale non tu vai con 700-800 watt a zero, completamente a zero, non si muove. Sì, bene, non so che ci sia, io poi stavo andando e venendo da una camera all'altra, quindi così come mi sono seduto è stato un fallo di chiappa a sinistra, involontario. No, ma non è niente Marco, ma stai scherzando, non c'è nessun problema, si può fare tutto, basta che uno sia sempre responsabile di quello che fa, ci mancherebbe altro, va bene. Beh ragazzi, dai, però io vi saluto perché alle 8:30 arrivano questi amici e io devo preparare della roba al forno, eccetera, eccetera. Vi saluto, un abbraccio, ciao Marco, ciao Antonello, ciao Gianni Lopreffetta, chiunque sia in ascolto, buona serata a tutti, buon proseguo, ci sentiamo, ciao. Sì, buona preparata di cena, buon tutto, buon a domani, dai, quando capita, va Antonè? Ciao Cla, ci sentiamo. Buona cena, buon tutto, alle prossime, non c'è problema. Ok, Tommy, cosa c'è? Sì, mezz'ora stai scendendo, cazzo, mamma mia. Non ti porto stasera. Nulla. Non ho voglia. Domani esci. Poi lì c'è il coniglio, vai, gioca col coniglio. Povero cane. Natalino c'è ancora? Non lo so, intanto mi sembra un'ora fa, poi è sparito. Aspetta un secondo che metto il panino di Simona, mentre al fornetto sta arrivando. Qui c'è un fornetto un bel strano. Devo aprirlo, chiuderlo io, cazzo. È bello che poi quando è caldo, cazzo, è bollente, cazzo, perché un giorno mi sono dimenticato che avevo va sopra, me le ha fatte tutte sole, me le ha fatte. Cosa stai facendo? L'ambovo, vai. No, sto cucinando un attimino uno di quei panini tipo fast food, hai capito? Adesso glielo metto nel fornetto e glielo scaldo a Simona, però ci impiega 5-6 minuti, 2 minuti rientro subito. Sì, così poi chiudo, devo mettere pure il motorino dentro, che palle. E beh Marco. Caro Natale, per fortuna la temperatura fuori ha rinfrescato un po' e scenderà ancora domani. C'è più caldo in casa che fuori, infatti dopo Adesso vediamo, salute apro tutte le finestre e faccio passare aria. Devo avere la batteria mezzo scarica in questo, perché mi sentivano basso e l'ho dovuto mettere a manetta. A che ora? Sì, stasera. Allora, forse di sfuggita, forse ti avevo sentito. Per caso quando c'era Saverio che stava regolando i toni e l'amplificazione, tu hai fatto un passaggio ed eri particolarmente basso di modulazione, però non potevo entrare in radio, c'avevo da fare. No, chi me l'ha detto è Claudio, mi sentiva basso. E allora l'ho messo a manetta e sta andando, ma deve avere la batteria scarica. Perché cos'è l'MB? Non mi oriento adesso, come timbrica non mi oriento, io sto usando il Mac normale, perché praticamente l'amplificato l'ho già accantonato, non dico l'abbia accantonato del tutto, ma questo c'è tassina up down, quando devi cercare segnali che fai zapping di una comodità estrema. E da quando è stato accanto, l'ho scoperto, oh, yeah. Non ha voluto sentire ragione. Io sto mangiando, mi ho fatto un po' di pasta asciutta con il ragù, c'è una passata di cozze e l'insalata. Oh, anzi oggi hai mangiato più tardi, di solito alle 7:30 già avevi finito certe volte. Va bene Nathalie, buona cena, buon tutto, io non contavo nemmeno di entrare e così da. Se mi dica chiude alle 8:30, boh, mi sa che ci vado domani, non a giugare adesso. Dica, faccio come voi, là, ci vai domani. E beh, pagatele quelle cose là. Guarda, me l'ha pagata mia zia perché stava casualmente uscendo a pagarsi roba alle poste e dice se tu mi dai il bollettino e i soldi te la pago io. E così ha fatto. A te non ti è sembrato vero? Però vedi, al tabacchino qua vicino non me la faceva pagare, era roba da pagare alle poste. Probabilmente hanno una codici leggibili dalle ricevitorie Sisal o quant'altro, dai, erano tasse dimenticate, tasse del 2019 clamorosamente dimenticate, perché noi certe volte mettiamo la cartellina in vista, tra virgolette, poi si copre, che cade dietro il mobile, non lo trovi più, poi però l'ufficio delle entrate, l'agenzia delle entrate se lo ricorda e come, trovati li hai. E a lui dovevi si ammettani, quelli non scappi. Però vedi, quelli non si perdono mai niente, io sto sempre perdendo bollettini, ricevuti i pagamenti, quelli non perdono mai nulla, maledetti siano. E allora, non se la possono perdere qualche cartella, gatta così, per strada, boh. Domare. Ci vorrebbe un bel attacco informatico a distruggere tutti gli archivi dell'agenzia delle entrate, magari. Con annessi e connessi. Tranquillo che quando devono ritirare li vogliono subito, ma dateli, gli aspetti 3 anni. Sì, se sei anziano aspettano che crepi, capito? Ritardano il più possibile, dice questo è molto anziano, magari ci lascia e una volta, vabbè. Guarda, una volta, ti giuro, è arrivato questo, cioè mamma viva, anche babbo, cosa del genere, è arrivato questo foglio a me, a Giampiero, a mia sorella, a mia madre e a mio padre, 200 euro per ciascuno. Cazzo, ho detto, e questi soldi, ma, dice, sono arrivato, e poi ci sono entrate, ma ha detto, dice, perché abbiamo pagato in più. E in pratica ci è arrivato questo regalo, ma ti parlo dopo 2 anni, che io neanche ci stavo pensando, dove la mamma, figurati. È arrivato questo foglio qui, ognuno degli eredi, hai capito? Me, Giampiera, Giovanna, io la pensavo che fosse di tuo, regalo del principale suo, nello stipendio, dice, ah, sai che siamo arrivati 200 euro di signor Franco, qua e là, si sono arrivati anche a me, come stai dicendo, anche Giampiero. E all'ufficio delle entrate perché babbo ha pagato in più. Adesso possibilmente quello se la possono dimenticare di ridarti roba che hai pagato in più. Va bene. porca miseria, io stacco signori che vado a farmi un caffè, e l'ora è quella giusta. Ciao Natalino, Antonello, oggi non ho avuto voglia di entrare in rotta, non... poi c'è mamma che sta marciando male, adesso mi tocca pure sgridarla. A quell'età lo sai, no, te l'ho anche detto l'altra volta, io ci sono già passato, quindi l'unica cosa devi stare attento, non so che ti dimentica il gas aperto o l'acqua aperta, il discorso è quello di fuori, del resto, capite? No, il gas già c'ha il coso automatico, la cucina stacca da sola, se non c'è fiamma qua non dà gas, per l'acqua vabbè, più seccante. No, ma non è quello il problema è che un po' gli anziani poi tornano un po' tipo i bambini, fanno i capricci, ritornano indietro, mi c'è una regressione. Sì, ci sono passato io, perché ho passato anche Natalino, sono l'altra. Quindi quando uno ha quel problema lì non c'è niente da fare, è arrivato a quell'età, non ci puoi fare niente. Deve avere pazienza e basta, come l'ho avuta io. Tutto lì. Se così io pazienza non ne ho mai avuta, né con bambini, né con anziani, né con coetanei, con nessuno non ne ho pazienza, figurati. Purtroppo vabbè, bisogna un po' andare avanti e sopportare un po', dai, d'altronde non è colpa loro. Appunto, io ci sono passato con babbo prima, poi dopo mio padre ci è passata mamma, dopo mamma e Giampiero, cioè Giampiero tutti e due collegati assieme, perché la notte mi telefonavano alle 2, 4 del mattino, due immagini, sei su, mica è caduto a trovare, allora scendere giù, sollevare a mamma, eccetera, eccetera, quando se non si batteva la testa al tavolo era a posto, se no lo chiamava l'ambulanza, eccetera, eccetera. Poi di nuovo di mattina ci volava Giampiero, perché allora quel cane che ci aveva faceva la pipì in salone e loro ci passavano sopra e ci pigliavano la tappata tutti e due. E ci sono passato la bellezza di 3 anni così. Quindi mi venivano gli incubi mi arrivavano. Stava tipo così. Titti, hai capito? Ma quello l'ho comprato l'anno scorso per me. Mettila tu. No, questa. Ecco. Tutta quella buchi, cazzo. Il buco al centro non l'hai fatto dove c'è il coso, almeno si vede. Io l'ho comprato così. Che coso si vede? Adesso non lo posso mettere perché ho messo il panno. Visto? Ma non posso uscire se non cago. Cosa è? Vabbè, Natalino forse è andato a mangiare, o comunque è nel mentre. E quindi stacco, dai, sentiamo, ciao a tutti. Sì, avevo sentito anche il profeta a una certa ora, però qua è acceso, con volume moderato, e poi sto un po' in cucina, un po' qua, un po' in camera del computer, un po' in camera mia, un po' da mamma, quindi non potrei stare meno in ruota, anche volendo, non fa. Ciao a tutti, dai, buona serata, buon tutto. Ciao Marco, ciao. Ciao Marco, ciao, ci sentiamo. Io ho anche un coniglio qui, ma è nata lì, come ospite, in cameretta, bello grosso lì. Allora ci cucineremo. No, è vivo, non hai capito cosa cosa direte. Ce l'ha Alicia, ce l'ha. Ricopra l'erba, ricompra, hai capito? Mangia di lusso, mangia, beve di lusso, lo mette fuori in terrazzo. Ti manca solo il guinzaglio e il coso, il collare gli manca. E lo porta a passeggio come il cane. Ma cos'è un coniglio? È un coniglio, cioè, già ti mando la fotografia. Porca miseria, che bello, è buono con le patate il coniglio anche. Infatti ho detto Alicia, qualche giorno gli ho detto, è che babbo è morto, se no se lasciavi a nonno gli ho detto il coniglio, state tranquillo, l'avete trovato già dentro al forno. Come con la storia del carcere di Sassari, Bancali, dice che c'è un'invasione di gatti, una colonia felina che sta aumentando ogni giorno che passa a Bancali. Quanto strano che non abbiano cominciato a servire coniglio, almeno 2 volte a settimana, coniglio in umido, che strano, i gatti diminuendo magari. Que- Manuela e Tizi, che erano stati tutti i gatti. Sì. Infatti non c'era qualcuno, c'era un tipo che prendeva i gatti e se li mangiava. Gli Tizi. Sì, anche in altri paesi me lo raccontava una persona, c'era un periodo di fame, diciamo, no? E proprio non c'erano gatti in paese, i pochi gatti che vedevi ancora sparivano e non ne vedevi più, non vedevi un gatto in paese, nulla. C'era un periodo dove anche i piccioni sparivano sempre questo, capito? Piccioni, tortore, uiaia. Ma non c'era mica la fame, no? E ti parlo del 2000, allora nel 90 c'eravamo in Via Vizzedu, c'eravamo 6 o 7 piccioni, c'eravamo mamma. Prendevano, partivano da casa e andavano in giro e poi tornavano indietro, un tipo piccioni viaggiatori. No, i piccioni non ci riuscirei, mi fanno senso, sembrano topi con le ali. Si li vedo mangiare di tutto, li vedo bere dalle pozzanghere, dove c'è la melma, beh, sì, proprio un topo con le ali. Se vuoi venire a prendere i piccioni ti porto alla cementeria, lì, quella palazzina, quante ne vuoi, è tutto bene riempire di piccioni, anche dentro gli appartamenti. Cioè immaginati, 2 metri di mezzo di piccioni nella scala. Sei Antonella, bene, gira vado, dai, ho già annunciato il QRT, sono qua, si fa veramente tardi. Ciao Antonello, ciao a tutti gli ascoltoni, ciao. Ciao Marco, ciao, ci sentiamo. Ciu. Io ci sono. E le dai nomi. Siamo troppo alla frillaria, e che ti pare? Buono, ok. Vai, allora a mare, ragazzi, non vado le piccite. Ecco. Ora. Deve andare bene così. Non c'hai gli occhiali, come mai? Me l'ho appoggiati qua. Si usa, gli occhiali si usano, c'è detta a me. No, li ho appoggiati perché sono a casa. Ma gli occhiali ce li ho ma non li uso, perché ancora non mi servono. No, li devi usare come regola. Se ce li ho nella patente devi usare, se no prendi la sanzione. Non ho nella patente occhiali io. Non entra nulla, è sotto un codice armonizzato, te lo mettono, se ci guida con lenti e sotto un codice mi sembra che sia 02, se c'è il colore devi mettere, se no sono cazzi tuoi. No, ce l'ho tolto, guida con lenti, ho già tolto. Che cosa? Adesso non è guida con lenti, l'ho tolto. No, se ce l'hai devi averla. No, ce l'avevo un tempo guida con lenti, adesso non me ne serve più. Però anche per il bene tuo, amico. Non mi vedi nulla a me. No, io me li metto gli occhiali, come? Se non voglio che quando guido la bicicletta, se non voglio che spacchi qualcosa, sì. No, io vedo bene da lontano, vedo bene, abbastanza bene. Sono più riposati i miei occhiali. Ah, riposanti? Sì, io. Vabbè. No, io me li metto perché non vedo un cazzo. La verità. Io li uso di notte perché mi si stanca la vista, che il sole mi dà fastidio agli occhi, mi si stanca la vista e non riesco a vedere bene da lontano. Ah, li metto da notte, solo di notte guido con gli occhiali io. No, io me li metto sempre perché non ci vedo, la verità. Non mi vedo più nulla, ma è una mala, vai. non è una dipendenza adesso. E dai, già passerà prima o poi, quando ti spogli te lo dimentichi. No, quello è un pregiudizio tutta la vita. E io sono già lo giorno, dopo i 40 anni siamo tutti fritti, eh. Ma ancora la gugliuta già funziona. Sei poco ma sicuro, ma dopo 40 anni la vista tende a calare da vicino, poi. E cosa vuoi dire? Sono il maschio possibile. Adesso due dentori piccitti, la massa che ne è varia. Purtroppo, e goie, dai che vada bene un attimino, bianco. Ehi, ehi, ehi. Uppala! Buonanotte a tutti! In Andonia,